punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Rivolgo un appello a tutti i moderati e a tutti i riformatori. Mercoledì 29 settembre, sono le ore 11, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, nel giorno del suo 74esimo compleanno, chiede la fiducia in Parlamento. Una giornata complessa, ricca di emozioni e reazioni. Sulle conseguenze sentiamo il punto del giorno dopo di Elisabetta Fiorito e di Vincenzo Miglietta. I numeri non tornano malgrado gli appelli in aula di Silvio Berlusconi. Il governo tiene, passa la fiducia a Montecitorio con 342 voti, ma senza Efiniani o l'MPA di Lombardo non raggiunge la maggioranza assoluta di 316 deputati. La sconfitta è politica, malgrado i due appelli di Berlusconi all'unità e a voti anche esterni alla maggioranza. Il Premier interviene in aula al mattino. Rivolgo un appello a tutti i moderati e a tutti i riformatori. È un invito che rivolgo anche alle forze più responsabili dell'opposizione. Poi nel pomeriggio Berlusconi abbandona i toni pacati. E vorrei dare anche una risposta decisa alle accuse che ci sono venute di compravendita di parlamentari. All'interno dell'UDC si è determinata una scissione di alcuni parlamentari. Se daranno il loro voto oggi non hanno chiesto e non avranno nessun premio né di sottosegretari né di altro. Il governo ottiene la fiducia, ma il leader della Lega Umberto Bossi insiste. I numeri sono limitati, la strada maestra è il voto. I Finiani sono indispensabili per governare. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Montecitorio. I Finiani, che 7 giorni fa sembravano sul punto di essere travolti dalla Fair Monte Carlo, ricevono dunque una boccata d'ossigeno e dunque parlano attraverso Italo Bocchino. Se Berlusconi ne avrà voglia, avrà i numeri per governare. Deve cercare un'armonia all'interno della maggioranza, non solo con Bossi, ma anche con Fini e Lombardo, che sono determinanti nei numeri. Se ricerca questa armonia e la trova, non ci sarà alcun problema. È un'opposizione che non fa sconti al Presidente del Consiglio. È il momento di ammettere il fallimento del governo, dicono dal centro-sinistra, a maggior ragione ora che i numeri non sono più dalla parte di Berlusconi. E allora la via d'uscita, secondo il Partito Democratico, è una sola, il passaggio elettorale. Il Paese non può più aspettare, dice Bersani. E non veniteci a dire hanno paura delle elezioni. Ve le siete rimessi in tasca voi le elezioni. Non noi. Oggi qui non si apre una pagina nuova, qui si comincia a chiudere una pagina vecchia. Molto duro l'intervento di Di Pietro, che parla di Berlusconi come di uno spregiudicato illusionista. Lei, signor Berlusconi, non è un presidente del Consiglio, ma uno stupratore della democrazia. A bocciare il Premier sono anche i centristi. Il governo ha scelto di galleggiare, dicono, dall'API di Rutelli. È un governo questo che naviga a vista, fa capire dall'UDC Casini. Dal 94 sono gli stessi buoni propositi. Se non li ha realizzati, la colpa non può essere sempre e solo degli altri. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Punto e a capo. Ancora un buongiorno a tutti voi, cari ascoltatori di Radio 24, io sono Gigi Donelli e nei prossimi minuti vi invito a seguire il nostro appuntamento con la settimana raccontata attraverso le voci, i servizi, le interviste che la redazione di Radio 24, i conduttori dei nostri programmi, i collaboratori della nostra emittente hanno raccolto inseguendo i fatti degli ultimi giorni. Ore convulse quelle che precedono il voto alla Camera nel tardo pomeriggio di mercoledì. E mentre si prepara la battaglia parlamentare, si cercano i voti, si trovano i voti. Pioggia di accuse reciproche per le operazioni di avvicinamento degli onorevoli all'uno o all'altro schieramento. Mannino, Calearo, Cesario, questi alcuni dei nomi che scopriamo o riscopriamo attraverso le agenzie che raccontano gli ultimi movimenti prima della battaglia parlamentare. Onorevoli migratori da destra, da sinistra a destra, persino dal centro al centro. La Zanzara ci aiuta a conoscerli meglio. Noi cominciamo a riproporvi Bruno Cesario, avvocato di Portici, classe 66, eletto nelle file del PD, migrato all'API di Rutelli, di cui era coordinatore regionale, fino a poche ore prima del voto. Alle 19.30, votata la fiducia al governo Berlusconi, si presenta alla Zanzara. Come è stato accolto questo suo voto da parte dei suoi ex colleghi del Partito Democratico? Qualcuno l'ha intercettato? Erano un po' agitati, ma alla fine tranquillo, non le ho visti molto. Nessuno le ha detto qualche insulto? Perché per esempio a Calearo sono arrivati un sacco di insulti, così mi risulta, così lui dice. Guardi, a me più incoraggiamenti che altro. No, non da parte del Partito Democratico, immagino. Ma io non ho elettori del Partito Democratico, sono io che ho portato i voti al Partito Democratico. Ma come? Scusi, scusi un attimo, Cesario, lei è stato eletto con le liste bloccate, che voti ha portato? Con la lista bloccata, ma io sono stato eletto in una posizione che era impossibile essere eletto se io non movimentavo, mi mettevo ho capito. In campo nei miei territori a far prendere e quanti voti quanti voti ha preso? Tantissimi voti, tanto è vero, mi hanno messo a posto in quel posto, che pensavano che non potessi mai essere eletto. Quindi, poiché io sono stato uno dei fondatori del Partito Democratico, sono il Partito Democratico. Uno dei fondatori. Ha preso i miei voti, sì. È il contrario. È il contrario. Non devo ringraziare nessuno. Per dopo carità. Aver vinto le primarie, sì. Essendo uno dei più, con la percentuale più alta in Italia, mi hanno messo all'ultimo posto. Quindi. Vabbè. Penso che non deve ringraziare nessuno, le porta un sacco di voti, è uno dei fondatori del Partito Democratico. Volevo sapere se qualcuno l'aveva insultata. Per l'Italia in maniera scherzosa, poi vedrai, sono una persona seria. No, in maniera scherzosa, lei ha dichiarato di votare per il paese. Sono convinto che la sinistra ormai è priva di proposte e idee, non riusciva a trovare un'idea condivisa all'interno del centro-sinistra, mai, solo litigi, guerre fra bande. Non è che dall'altra parte non ci sono litigi, come abbiamo visto negli ultimi mesi. Sono uguali. Non c'è una parte che pensa che può insegnare la modalità. Sono uguali, allora perché lei non resta fuori se non vuole litigi? Invece è andato da una parte, mi sembra, o no? In una parte per non litigare, perché vedo che alla fine il paese deve essere governato. Vabbè. E i tatticismi di alcuni partiti che invocano la responsabilità solo se fanno un governo tecnico con loro. Si chiama Sto nell'UDC, tratto col PD, forse voto PDL. Il provocatorio articolo di Repubblica, firma di Antonello Caporale, che ha scosso non poco gli ambienti centristi. Artefice di una mitragliata, non si sa quanto inconsapevole, di imbarazzanti dichiarazioni, è Michele Pisacane, che ora sentiamo. Onorevole Pisacane, senta, io ho appreso da poco, perché sa, in realtà l'avevo già letto qualche mese fa, che lei, che è stato eletto nell'UDC, giusto? Sì. E in realtà poi a un certo punto ha deciso di candidare sua moglie al Consiglio regionale della Campania. No. E ha preso un sacco di voti, o sbaglio? Mi ero meravigliato. Di che cosa? Mi ero meravigliato che in questo tempo non avevo fatto questa domanda. Infatti, ci abbiamo messo un po' di tempo. Però no, ma non è vero, dai. Non è vero che cosa? Non è vero che ha candidato la moglie. Dai, ha candidato la moglie, si è candidata da sola, perché non c'ha bisogno della badante, diciamo. Però è vero che con il suo appoggio, eccetera, sua moglie ha preso 18.824, giusto? È informato. Però lei rivendica questi voti, cioè Michele Pisacane, lei dice Repubblica ho 18.824. Io non rivendico niente, si è candidata mia moglie, perché devo rivendicarle io? Casini mi ha offerto di fare il ministro in un governo PD-UDC in cambio di un sostegno dell'UDC Sicilia alla sua linea politica, che prevede una deriva a sinistra e un accordo con D'Alema e Bersani. Lo dice all'ANSA il deputato Saverio Romano, ex segretario dell'UDC in Sicilia, leader dei siciliani che hanno scelto di formare nuovi gruppi parlamentari, i Popolari per l'Italia di domani, alla Camera e all'Assemblea siciliana. Insomma, la vicenda è complessa, come sempre e nello stesso tempo come mai prima, ma questa è appunto la politica italiana, in una settimana che è di scontri, ma anche di insulti. Bossi ci mette del suo, lavorando sull'acronimo SPQR. Baglioni e De Gregori la prendono da par loro, il primo dice una frescaccia, il secondo mi rimbalza, davvero Romano. La politica si trova invece un nuovo ceppo da ardere a fuoco lento al falò delle sue vanità. Bianco o nero? E vi odio voi romani,

non è facile star dietro al dibattito culturale nel centrodestra. Punto e a capo. Il 3 ottobre del 2010, cioè domani, la Germania finisce di pagare i debiti di guerra. La notizia sembra incredibile, eppure lo Spiegel non scherza e i debiti in questione sono quelli della Prima Guerra Mondiale. 1919, dunque, 91 anni fa. L'Europa presenta il conto dell'aggressione tedesca. La Germania in ginocchio è costretta ad assumersi la responsabilità esclusiva del conflitto. 132 miliardi di marchi oro. Questa è la cifra da pagare. Nel 1923 l'inflazione l'aveva già portata a 4.200 miliardi di marchi. Dalla storia all'economia che condiziona un secolo all'attualità. Dublino, 30 settembre. Nuovi segnali sulle difficoltà finanziarie per l'Irlanda. Il governo di Dublino ha annunciato che rileverà il controllo della Allied Irish Bank e che fornirà fondi d'emergenza a due banche più piccole, portando il deficit del paese a livelli record che richiederanno nuove misure di austerità. Il ministro delle Finanze, Brian Lenihan, ha ammesso che le ultime cifre sono orrende, ma le ha definite gestibili e ha promesso che non ci sarà alcuna insolvenza sull'enorme debito delle banche. I numeri parlano da soli. Il ministro ha anticipato che quest'anno il deficit pubblico supererà il 30% del PIL a causa del conto salatissimo pagato dall'erario per il salvataggio di tre banche, che includono anche Anglo-Irish e Irish Nationwide. Punto e a capo. Dalle banche in difficoltà alle banche che cambiano guida. Ci sono voluti meno di 15 giorni per indicare il sostituto di Alessandro Profumo alla guida di Unicredit. Federico Ghizzoni sale al vertice di Unicredit dopo una vita intera all'interno del gruppo. Fino a ieri Ghizzoni è stato vice CEO e responsabile della divisione centro-est Europa di Unicredit, territorio di crescita e fonte di risultati sempre positivi anche nei mesi più duri della crisi. Scelto con una decisione unanime dal consiglio di amministrazione riunito nella sede della controllata Bank Pekao a Varsavia, Ghizzoni ha superato sul filo di lana l'altro candidato interno, Roberto Nicastro. Nelle sue prime parole da capo azienda, Ghizzoni si è detto onorato della fiducia ricevuta e ha raccolto apprezzamenti da tutti i componenti del board, a partire dai vicepresidenti Luigi Castelletti e Fabrizio Palenzona. Soddisfatto anche il governatore della Banca Centrale Libica, Farhat Omar Bengdara, che ha colto l'occasione per annunciare che gli investitori libici non intendono salire ulteriormente nel capitale di Unicredit. Paolo Pavonetto da Radio Corte, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Varsavia. E su questa vicenda, i tempi della decisione, sentiamo il commento del direttore di Radio 24, Fabio Tamburini. Lo scontro che ha portato all'uscita dell'amministratore delegato Alessandro Profumo da Unicredit e alla sostituzione con un manager interno, Federico Ghizzoni, ha avuto un protagonista, il tedesco Dieter Rampla, presidente del gruppo. È stata una vera sorpresa. In pochi giorni Rampla ha cambiato pelle, trasformandosi da presidente molto istituzionale ad ago della bilancia decisivo e ora fa capire che conterà, e non poco, nella gestione della banca. Rampla era al vertice dell'istituto di credito tedesco HVB, che ha attraversato momenti di grande crisi ed è stato poi accorpato in Unicredit. Dicono di lui che è un banchiere esperto anche nei rapporti con gli azionisti di riferimento e avrà modo di dimostrarlo con quelli del gruppo, dalle fondazioni alla compagnia assicurativa Allianz. Sarà interessante vederlo all'opera e verificare se il baricentro della banca tenderà a spostarsi verso Monaco di Baviera, in passato sede centrale della HVB. Teniamo sempre d'occhio in questo appuntamento del sabato i principali dati Istat, soprattutto se riguardano il lavoro. Ieri le stime provvisorie per il mese di agosto, la disoccupazione è in calo all'8,2% dall'8,4% di luglio. Sentiamo il ministro del welfare Maurizio Sacconi al microfono di Valeria De Rosa. Certamente un dato positivo, sarebbe colpevole non rilevarlo. Negli Stati Uniti si attendono i dati mensili congiunturali sull'occupazione perché ne conseguono anche andamenti dei mercati finanziari e le politiche di governo sono attentamente tarate in conseguenza ad essi. Bene, nel nostro caso scende il tasso di disoccupazione significativamente nell'arco di un mese, non sale il tasso di inattività, cioè di coloro che sono, come si dice, scoraggiati, scende significativamente il tasso di disoccupazione giovanile, anche se rimane consistente ancora la sua dimensione. Però il tasso di occupazione non registra cambiamenti? No, registra un timido andamento positivo, cioè un timido innalzamento, quindi il tasso di occupazione reagisce per fortuna positivamente, anche se non ancora in modo significativo, ma ripeto, guardiamo tutti soprattutto al tasso di disoccupazione che è molto rilevante nell'arco di un mese, il fatto che sia sceso di 2 decimali, 3 decimali se consideriamo l'andamento medio del precedente trimestre. Punto e a capo. Ci sono tre topi, anzi sono tre ratti. Il primo si chiama Fabrizio e vive a Verbania, ma fa il piastrellista in Ticino. Il secondo si chiama Bogdan, è rumeno, non ha né un domicilio né un lavoro. Il terzo si chiama Giulio e, come Tremonti, è un avvocato italiano. Non è l'inizio di una barzelletta. I tre animali sono protagonisti della campagna lanciata in Ticino. Dietro all'iniziativa sembra che ci siano personaggi noti del mondo imprenditoriale e politico ticinese. Nel mirino, insomma, i cosiddetti tre mali dell'economia: i frontalieri, i criminali stranieri e lo scudo di Tremonti. Sentiamo alcuni degli interessati al microfono di Roberta Pellegatta, cominciando da Michel Ferrise, titolare dell'omonima agenzia di comunicazione che ha ideato la campagna. Sono tre ratti, diciamo, che rappresentano un po' i tre temi del promotore, che sono chiaramente la fiscalità, la violenza straniera in Ticino e poi anche il problema del frontalierato. Al centro della campagna c'è questo formaggio, il formaggio rappresenta un po' il Ticino e questo formaggio se lo stanno spartendo questi tre ratti. Ho notato anche sul blog di balairat.ch che abbiamo avuto delle visite veramente dei picchi altissimi, quindi il tema c'è, l'obiettivo è che non diventi una campagna, come dicevano, razzista, perché non è quello. Il messaggio è? Sicuramente. Il messaggio è semplicemente dare l'attenzione ai ticinesi di questo problema che c'è oggi, perché in Italia magari ci sono, diciamo, i cinesi, avete anche voi questo problema, qua in Ticino l'abbiamo anche noi. Marco Zacchera, sindaco di Verbania. In realtà noi a Verbania abbiamo 3.500 persone che tutte le mattine si alzano alle 5 del mattino per andare a lavorare in Svizzera, e devo dire in un clima positivo, perché poi il frontalierato è anche una parte importante dell'economia svizzera. Al primo momento ci si ride sopra, se ci si ripensa la cosa è molto grave, anche perché secondo me ha veramente un carattere razzista che è assolutamente inaccettabile. E infine Pier Rusconi, presidente dell'UDC Ticino. Si fa presto a metterci il timbro razzismo su qualsiasi cosa. Mi dica dove c'è una roba sbagliata in quella campagna lì, onestamente. Sono tre temi diversi, sono tre cartelloni diversi. Ognuno parla di un tema che è caro ai ticinesi e che lo sentono sulla loro pelle. Uno è sicuramente la parte di frontalieri che vengono a occupare posti di lavoro che erano tradizionalmente dei ticinesi e ci vengono al 40% in meno dello stipendio. Beh, però se ne serve l'economia svizzera e anche le imprese svizzere, visto che li utilizzano. È colpa degli imprenditori ticinesi, approfittano del marchio svizzero per dire abbiamo una buona qualità e poi danno lavoro a non agli svizzeri, questo è vergognoso. Punto e a capo. Dal nord al sud, Raffaele Martino, vicepresidente del consiglio comunale di Crotone, è stato ospite di Roberto Galullo a Sottotiro. Ha presentato una proposta sorprendente, quella cioè di fare gestire i beni sottratti alla mafia dai figli, dai parenti più stretti, dei clan e dei gruppi mafiosi. Sentiamo esattamente come. Bisogna cercare di individuare, e ci sono, mi crede, ci sono all'interno di queste famiglie tutte quelle persone, io parlo soprattutto nel mondo dell'adolescente, perché non posso andare ad addensare una persona di 30 anni che ormai no, no, ha ma assorbito ho capito, allora ho capito, ho capito lo spirito, ho capito lo spirito. Io lo riassumo, lei dice ci sono delle persone che devono essere ancora formate all'interno di queste famiglie mafiose, io lì voglio intervenire, quei ragazzi che ancora non hanno una cultura permeata di mafia possono essere recuperati lavorando in quei terreni, è così? Bisogna che attraverso le nostre associazioni di volontariato, Libere è una di queste, quando saranno assegnati questi beni confiscati, dobbiamo avere quel coraggio di evitare di aprire sempre di più questo solco tra va bene. Cercare di metterli insieme a noi, non isolarli per dire guardate, ecco la fine che fanno i vostri parenti. No, d'accordo, Martino. Rubano. E ora il sindaco di Capo Rizzuto, Carla Girasole. Guardi, il percorso di legalità secondo noi inizia, come ha detto il consigliere, da ragazzi, da bambini, per cui noi abbiamo iniziato già questo percorso con le scuole, per cui la formazione dei ragazzi alla legalità. E da qui parte quello che vuole il consigliere Martino. Certo. L'allontanamento dalle famiglie mafiose arriva, cioè inizia con questo percorso di formazione. Un appartenente a un clan non appartiene solo perché ha un posto di lavoro, appartiene per vincoli di sangue, ma anche per una serie di capacità che la famiglia ha, no? Quello di assoggettare la società, di avere il controllo del territorio. Ci sono una serie di prerogative che la famiglia ha. Io non credo che chi appartiene alla famiglia lo fa solo perché ha bisogno di un posto di lavoro. Esistono casi già qui a Isola di ragazzi che appartenevano a famiglie e che si sono allontanate perché hanno disconosciuto quello che era il clan. Io penso che con questi percorsi che le scuole, la società civile, l'amministrazione e le associazioni fanno, questo è il percorso giusto. E ora torniamo a Milano. Il direttore di Libero, Maurizio Belpietro, al centro di un episodio a dir poco inquietante. A tarda notte, nelle scale della sua casa di Milano, un uomo armato è stato messo in fuga dalla scorta che ha esploso in aria 3 colpi di pistola. Gli investigatori stanno esaminando le telecamere per valutare l'eventuale presenza di altri soggetti. Belpietro, a cui va naturalmente la nostra solidarietà, ci ha raccontato il suo stato d'animo e conclude poi con una riflessione. Non mi faccio prendere dall'agitazione, certo che ieri sera ho pensato ovviamente alle persone care, come è naturale e ovvio che una persona faccia, e quindi sono amareggiato soprattutto per la preoccupazione che do a loro, che do ai miei familiari. Prevale il senso di ingiustizia perché da tempo io mi domando perché questo paese non sia un paese normale dove qualcuno possa sostenere le opinioni senza dover pagare con la limitazione della libertà, con la paura, con le minacce. Roberto Saviano, protetto ormai da anni dopo la pubblicazione del suo Gomorra e le pesantissime minacce arrivate dalla Camorra. Lui è forse il caso più emblematico, ma dalla cronista del Mattino Rosaria Capacchione al redattore dell'Ansa, oggi inviato dell'Espresso Lirio Abbate, sono tanti in Italia i giornalisti aggrediti e minacciati, come è successo appunto ieri sera al direttore di Libero Belpietro. Giornalisti costretti in molti casi a vivere sotto scorta. Una categoria a volte nel mirino, come testimonia anche il rapporto 2010 di Ossigeno, l'osservatorio sui cronisti sotto scorta promosso dalla Federazione Nazionale della Stampa. Un rapporto che conta 400 casi solo nel biennio 2009-2010. Soprattutto sono il doppio rispetto al triennio 2006-2008. Punto e a capo. Ultimi minuti del nostro appuntamento con Punto e a Capo. Abbiamo attraversato la settimana utilizzando il taglio della politica, dell'economia, ma naturalmente anche della cronaca. E ora parliamo di un dolore che molti conoscono, un dolore moderato forte in un solo lato della testa che porta fotofobia, fonofobia e persino osmofobia, ovvero l'avversione ai profumi e agli odori, ma causa anche nausea, vomito, ma anche confusione e vertigini, insomma un disastro. È la manifestazione, naturalmente non tutti i sintomi insieme, dell'emicrania, il mal di testa che colpisce duro e in maniera diffusa. Mediamente i malati subiscono uno o due attacchi al mese della durata di 24 ore, però vi sono casi, un 10% circa, di attacchi settimanali, di sintomi prolungati anche per 3 giorni e di recidività quasi persistente, che colpisce 15 giorni al mese. Su questo fronte delicato ci arrivano delle buone notizie attraverso il nostro appuntamento quotidiano con la salute. A Essere Benessere questa settimana Nicoletta Carbone ci ha introdotto al mondo di TRESC. I risultati di fatto di uno studio fatto da ricercatori inglesi dell'Università di Oxford pubblicati sulla rivista Nature Genetics. Nicoletta Carbone ha commentato questa scoperta con il professor Barbanti, primario di neurologia all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Fino adesso erano stati trovati geni per alcune sottoforme di emicrania con aura, molto rare per la verità. Questo tipo di gene invece sembra essere implicato in una forma di emicrania che riguarda il 30% degli emicranici, chiamata emicrania con aura. L'aspetto importante di questa scoperta sta nel fatto di aver identificato un canale del potassio che si chiama appunto TRESC, il quale sembra essere proprio sospettato di quel fenomeno che ha un nome molto difficile, cortical spreading depression, sostanzialmente una specie di iperattività della corteccia cerebrale seguito poi da un riposo compensatorio che è alla base dell'emicrania con aura. Quindi un vero passo avanti. L'aver identificato in questa forma di mal di testa non rara, finalmente non rara, un specifico gene implicato avrà ovviamente nel corso degli anni come logica conseguenza lo sviluppo di molecole specifiche per compensare quel difetto genetico. Tanto più specifico il farmaco, e ora sembrerebbe possibile, tanto meno effetti collaterali. Punto e a capo. Ultima tappa di questo nostro racconto della settimana che ci porta al cinema con Marta Cagnola per parlarci di Virzì e della sua candidatura al più importante dei premi cinematografici. Ho preso la chitarra. Iniziamo con un in bocca al lupo a Paolo Virzì. Ieri la commissione dell'ANICA ha designato La prima cosa bella come film italiano candidato all'Oscar per il miglior film straniero. La cinquina delle pellicole nominate verrà annunciata a Los Angeles il 25 gennaio. Intanto Virzì parte proprio per gli Stati Uniti per presentare il suo film. Emozionati o molto orgogliosi, stiamo facendo i bagagli, stiamo andando a Los Angeles per andare a fare dei primi screening per la giuria del Golden Globe. Siccome il film credo abbia una propria energia, no? Una sua forza, primo a esserne stupito sono anch'io, ma com'è possibile che insomma una bestiaccia, una carogna disincantata come me abbia potuto sfornare un film così pieno, vorrei dire, d'amore. Questo sentimento che si muove dentro un film fortemente italiano, però è un sentimento così universale, che insomma, questa cosa ci dà fiducia e ci fa andare adesso a Los Angeles con uno spirito anche di orgoglio. 4 uscite per un weekend soprattutto italiano. Che gli dice il prete alla gente che sposa? Che deve essere fedele sempre, nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia, sempre, come i deficienti che credono a tutto. Io adesso, dopo 30 anni, io sto in mezzo ai matti. Sono diventato deficiente pure io. La pecora nera è la versione cinematografica dello spettacolo di Ascanio Celestini, tra follia e poesia. Il cinema, essendo un linguaggio dello sguardo, è un linguaggio che passa attraverso gli occhi, ma più che essere un linguaggio da vedere, è un linguaggio che vede. E quindi la storia che stava nella testa di un personaggio, e questo in particolar modo questa storia, che è la storia di un personaggio schizofrenico, mi sembrava perfetta per essere nello sguardo del linguaggio cinematografico. In sala da oggi anche il bisio di Benvenuti al Sud, Adam Sandler in Un weekend da bamboccioni e l'horror The Horde. 3 stagioni, 450.000 spettatori, torna la Divina Commedia a teatro. Da domani all'Arena di Verona, in tournée in tutta Italia fino a fine gennaio. Regia di Maurizio Colombi, effetti speciali curati dal premio Oscar Carlo Rambaldi, musiche di Monsignor Marco Frisina. È un testo, secondo me, di grande attualità e anche poeticamente di grande efficacia musicale. Uno pensa appunto che queste terzine con la rima, eccetera, possano essere delle cose arcaiche, antiche, mentre invece Io ci trovo una grande modernità, è un viaggio alla ricerca del senso della vita dell'uomo. Descriverà fino a che c'è l'uomo, descriverà proprio le sue angosce, i suoi desideri e anche le sue gioie. Bene, con questo noi abbiamo davvero concluso. Io vi lascio come di consueto all'appuntamento con l'altra Europa condotto da Federico Taddia. Vi ricordo solamente www.radio24.it dove potete trovare naturalmente tutto l'archivio sonoro di Radio 24. Ancora un buon fine settimana a tutti da Gigi Donelli.